sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Migliaia in arrivo dalla Libia, Gheddafi ha aperto le prigioni, dice un rapporto dei servizi segreti. Maroni con la Tunisia, il peggio è passato. In Libia, misurata sotto assedio allo stremo, la NATO decide il futuro della guerra, Francia contro le armi ai ribelli. Gomorra a Padova, estorsione e minacce per mettere le mani sull'economia del nord, 29 arresti. Cannes, Moretti e Sorrentino candidati, sarà sfida italiana per il cinema. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Starebbe arrivando un'ondata di migranti dalla Libia, così almeno stando ai rapporti dei servizi segreti. Un'arma di Gheddafi per fare pressioni sulla NATO proprio nelle ore in cui a Berlino si discute sulle prossime mosse e su come indirizzare le operazioni militari. Ormai allo stremo è la città di Misurata, dove anche questa mattina i bombardamenti sono stati pesantissimi. Allora, prima del fronte italiano, sentiamo le ultime notizie proprio dalla Libia. La forza militare del Rais non accenna a diminuire. Questa mattina 80 missili hanno colpito una zona residenziale vicino al porto di Misurata. La città è in ginocchio. Gli insorti hanno lanciato un appello disperato alla NATO, chiedendo di intensificare gli attacchi contro le forze di Gheddafi, altrimenti a Misurata sarà un massacro. L'Alleanza Atlantica si riunisce oggi e domani a Berlino. I ministri degli esteri dei 28 paesi NATO discuteranno il futuro della missione e gli eventuali aiuti ai ribelli. Ancora una volta Parigi e Londra hanno staccato il gruppo, chiedendo già ieri non solo di mobilitare maggiori risorse aeree, ma anche di rendere più frequenti i bombardamenti. Al vertice arriverà anche il segretario di Stato americano Hillary Clinton, che ieri ha denunciato gli attacchi brutali e continui del regime di Tripoli contro i civili. Di fatto però, al momento, gli Stati Uniti restano in disparte. A complicare il quadro diplomatico anche la ferma condanna dell'intervento militare da parte dei paesi BRICS. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica si sono detti preoccupati e nero su bianco hanno criticato l'uso della forza da parte della NATO. Valeria De Rosa, Radio 24, il sole 24 ore. Quale scenario dunque dobbiamo aspettarci? Sempre Valeria De Rosa ha sentito Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche di Milano. È evidente, tanto per cominciare, che non c'è particolare determinatezza da parte di diversi attori, in modo particolare da parte dell'attore più importante, cioè gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il paese che in passato ha dato coerenza alle coalizioni. In questo momento la coalizione deve trovare coerenza senza gli Stati Uniti, il che ovviamente è molto più problematico e dal punto di vista politico e dal punto di vista diplomatico e dal punto di vista militare. L'altra novità è la difficoltà che sta incontrando la NATO nell'inserirsi prima e nel gestire poi le operazioni. Le polemiche di questi giorni tra Francia e Gran Bretagna da un lato e NATO dall'altra sono un altro segno di una crisi dell'organizzazione, che è una crisi che sostanzialmente accompagna la NATO dall'inizio di questo ultimo decennio. Secondo lei a questo punto quale può essere l'evoluzione di questa situazione? Se il regime di Gheddafi dovesse tenere ancora per qualche settimana, è chiaro che le difficoltà non potrebbero che crescere. E a questo punto credo che avremo due possibilità. La prima è che cambino le regole e quindi qualcuno assuma un'iniziativa molto più intensa di quanto non sia stato fatto fino adesso, ma mi sembra molto difficile. L'altra possibilità è che cresca la tentazione di passare le responsabilità militari agli unici attori che sembrano disposti a pagare un prezzo per combattere, e cioè i combattenti locali. Questo solleva naturalmente un'infinità di rischi dal punto di vista politico e aggiungo anche dal punto di vista umanitario, perché questa è la soluzione che fu seguita con l'UCK in Kosovo, fu seguita con l'Alleanza del Nord in Afghanistan, e questa soluzione fu costosissima dal punto di vista umanitario perché le leggi della guerra, le leggi dello Ius in Belle furono massacrati da questi attori. E dalla Libia, dicevamo, sarebbero intanto in arrivo migliaia di persone, così almeno stando ai numeri forniti questa mattina, mentre il ministro Maroni dice invece che sul fronte tunisino il peggio sarebbe passato. Allora, facciamo il punto con Andrea Viali. Sì, Anna, il responsabile del Viminale oggi ha usato toni tranquillizzanti, possiamo dire, sull'emergenza immigrazione. La fase più difficile, quella che ha fatto seguito ai massicci sbarchi a Lampedusa, è finita, ha detto Maroni, che ha escluso l'apertura di nuove tendopoli, ha spiegato che l'accordo con la Tunisia sta funzionando, si sta potenziando il sistema di pattugliamento delle coste tunisine e tutti i giorni vengono fatti i rimpatri dei migranti arrivati dopo il 5 aprile. Meno tranquillizzante invece quanto hanno riferito i servizi segreti, che mettono in guardia da una possibile nuova ondata di migranti, ma come dicevamo stavolta dalla Libia. In un'audizione al Copasir, il direttore dell'AISI, il generale Picci Rilloggi, ha riferito che Gheddafi avrebbe rimesso in libertà circa 15.000 migranti originari dell'Africa subsahariana che erano detenuti nei cosiddetti centri lager libici. Ecco, ora queste persone potrebbero dirigersi verso l'Italia dal porto di Zuwara, un porto che è ancora controllato dal regime di Gheddafi. Gheddafi che in sostanza, dicono i servizi segreti, avrebbe deciso di utilizzare anche quest'arma, l'arma cioè dell'immigrazione clandestina, per condizionare l'Occidente e il nostro paese in particolare, Anna. Grazie ad Andrea Viali. Intanto a Genova nuove tensioni contro l'arrivo degli immigrati. Scritte sono comparse nella notte sui muri di una scuola destinata ad ospitare una sessantina di profughi. La notte scorsa era stata fatta esplodere, ricordiamo, una bomba artigianale. Ma in tutto questo scenario il numero dei rifugiati in Italia nel 2010 è invece in diminuzione, è crollato del 40% rispetto al biennio precedente. L'Italia ha un numero di rifugiati molto inferiore ad altri paesi europei. Questo quanto emerge dal rapporto 2011 della Fondazione Astalli, che sostiene i centri Astalli, servizio per i rifugiati in Italia, promossi dai gesuiti. Paolo Piacenza ha intervistato il direttore Bernardino Guarino. Il 2010 è stato veramente un anno nero da questo punto di vista, nel senso che siamo arrivati a 10.000 domande a fronte delle 30.000 di due anni precedenti, per cui c'è stato un calo intorno al 40% in due anni. Quindi anche nei ragionamenti sull'emergenza che si sono fatti quest'anno non si è però abbastanza sottolineato che in effetti si partiva da un numero molto molto basso e certamente non in linea anche con gli altri paesi europei. Ecco, qual è la situazione degli altri paesi europei? Ma guardi, da quando c'è l'Europa e le direttive europee purtroppo c'è stato, diciamo, una omologazione verso il basso, per cui anche i paesi che avevano una grandissima tradizione come la Germania, la Svezia, in genere i paesi del nord Europa, hanno abbassato molto, diciamo, gli standard e quindi anche le domande si sono ridotte, però certamente non arrivano ai numeri italiani. La Francia per esempio ha avuto l'anno scorso 40.000 domande. A fronte di questo però non migliorano le condizioni sull'accoglienza, perché in Italia esiste un buon programma che è quello promosso in collaborazione con l'ANCI e Comuni Italiani, che è lo SPRA, il sistema di protezione per gli identi asili e rifugiati, e con questo sistema sono accolte, ci sono 3.000 posti e tutti dicono che è un buon programma, che è una buona pratica, ma che i posti sono insufficienti e quindi quando poi ci sono le emergenze, paradossalmente, anziché andare a potenziare questo strumento, che è l'unico che poi permette una reale integrazione, perché le persone si integrano molto meglio nei piccoli centri che nelle grandi città, si fanno invece programmi emergenziali che costano il triplo e che poi alla fine non ottengono risultati. Torneremo a parlare di immigrazione e di emergenze umanitarie più avanti nel giornale. Ora invece voltiamo pagina. Sgominata in Veneto un'organizzazione mafiosa collegata al clan camorristico dei Casalesi. Oltre un centinaio di imprenditori vittime di episodi di estorsione e usura aggravata. Gli arrestati minacciavano e acquisivano le imprese del nord-est in difficoltà per la crisi, anche con sequestri di persona, intimidazioni e pestaggi. La copertura base logistica dell'organizzazione era una società di recupero crediti, la Aspide di Padova, da cui venivano pianificate le attività di riscossione dei prestiti con tassi fino al 180% annuo. Da qui partivano le spedizioni intimidatorie, pestaggi e sequestri di persona. Vittime dell'organizzazione mafiosa collegata al clan camorristico dei Casalesi, sgominata dai carabinieri di Vicenza e dalla Direzione Investigativa Antimafia di Padova, 130 imprenditori, per lo più del nord-est, in difficoltà per la crisi. 29 le persone arrestate tra Veneto, Lombardia, Sardegna, Campania e Puglia nell'operazione coordinata dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Venezia. Associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria alle accuse. L'organizzazione soffocava le vittime con l'usura, fino a costringerle a cedere le proprie attività. Per non lasciare tracce, il gruppo usava carte PostePay ricaricate dal denaro estorto alle vittime. Di fronte ai ritardi nei pagamenti scattava il pestaggio o addirittura il sequestro di persona, come nel caso di due imprenditori edili, padre e figlio, tenuti in ostaggio per molte ore sotto la minaccia delle armi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sarà questo uno dei temi di Italia in Controluce alle 13.30. Faccia a faccia questa mattina tra il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e il segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Le due leader si sono viste nella foresteria di Confindustria in via Veneto. E il Presidente del Consiglio Berlusconi incontra invece i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato a Palazzo Grazioli. La riunione serve per fare il punto dopo l'approvazione del processo breve alla Camera. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, oggi pranzo a Palazzo Grazioli per il capigruppo di Camera e Senato. La riunione con il Premier Silvio Berlusconi servirà a stabilire i provvedimenti da calendarizzare, probabilmente anche quella del processo breve che deve tornare al Senato. Smentiscono poi i ministri e capigruppo la possibilità che il Premier Silvio Berlusconi lascia il testimone ad Angelino Alfano nel 2013, come ha annunciato sul Wall Street Journal. Berlusconi lo lascerà, spiega il Presidente dei Deputati PDL alla Camera Fabrizio Cicchi. E questa è un'esercitazione che durerà un giorno. Malcontento tra i ministri, esclusi dalla possibile investitura d'Alfano, mi occupo del presidente e non del futuro, ribatte secco quello del welfare Maurizio Sacconi, nessuna fibrillazione nel partito, garantisce poi Sacconi, non più quella di fisiologica di una grande comunità. Ha fatto bene Berlusconi a dire che abbiamo una robusta classe dirigente che ha avuto il merito di formare. Il titolare delle infrastrutture Altero Matteoli stima molto Alfano, ma nessuno può dare un'investitura, nemmeno un autorevole presidente del Consiglio. Causpica l'opposizione per Pierluigi Bersani, PD. Alfano si sta allenando bene a diventare Premier, soprattutto dopo l'approvazione del processo breve alla Camera. E per il momento, qui da Montecitorio è tutto a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, noi parliamo ora di cinema. Dobbiamo fare qualcosa subito, per questo abbiamo scelto lei, perché lei è il più bravo. Che condanna, me lo dicono sempre tutti. Senta, ha problemi con la fede. Nanni Moretti e Paolo Sorrentino saranno in competizione per il 64esimo Festival di Cannes. L'annuncio è arrivato questa mattina da Parigi e Nanni Moretti ha appena concluso la presentazione del suo atteso Habemus Papam che sentivamo per noi Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Anna, si è appena conclusa la proiezione e adesso è appena cominciata una affollatissima conferenza stampa con Nanni Moretti, una prima che avviene proprio il giorno in cui, come dicevi, è arrivata la notizia che Habemus Papam in competizione a Cannes. È una commedia dolorosa sul tormento e dubbi esistenziali del cardinal Melville, diventato inaspettatamente Papa dopo due fumate nere, è interpretato da Michel Piccoli. Il nuovo pontefice è in preda a veri e propri attacchi di panico, schiacciato dalle responsabilità, e in suo aiuto arriva un illuminato della psicanalisi interpretato da Nanni Moretti. Volevo raccontare, ha detto il regista poco fa, un personaggio fragile che si sente inadeguato rispetto al ruolo che gli capita di ricoprire, un sentimento che credo capiti a tutti i cardinali quando vengono eletti Papa, ma volevo farlo comunque attraverso una commedia. Si tratta dunque di un film introspettivo ma anche costellato da momenti surreali in puro stile murettiano, come improvvisate partite di pallavolo tra zilli porporati capitanati appunto da Moretti nei giardini vaticani. Nel cast c'è anche Margherita Bui nel ruolo della ex moglie, anche lei psicanalista. È costato 8 milioni di euro per il film, sono state usate ambientazioni come Villa Medici, Palazzo Farnese, una cappella Sistina interamente ricostruita a Cinecittà, sicuramente uno dei film più attesi del 2011, farà molto discutere, bisognerà soprattutto vedere quali saranno le reazioni della Chiesa, uscirà domani nelle sale italiane. Da Roma per ora è tutta, voi da linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. C'è una notizia dell'ultima ora, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha detto che si riserva di verificare gli effetti della prescrizione breve prima dell'approvazione finale al Senato. Così poco fa il Capo dello Stato, a margine di una sua visita a Praga, rispondendo a chi gli chiedeva cosa pensasse delle preoccupazioni delle famiglie delle vittime. Valuterò, ha detto Napolitano. GR24, le notizie di oggi, processo breve, Napolitano cauto, valuterò gli effetti prima del voto finale al Senato, dice il Capo dello Stato. La NATO a Berlino riunita per decidere il futuro della guerra in Libia, gli Stati Uniti sosterremo le operazioni militari fino alla fine. Migliaia in arrivo dalla Libia, Gheddafi ha aperto le prigioni, dice un rapporto dei servizi segreti italiani, Maroni con la Tunisia, il peggio è passato. E torniamo in studio ancora con un'altra notizia degli ultimi minuti. Dicevamo, la NATO riunita a Berlino per decidere le prossime mosse per la guerra in Libia. Gli Stati Uniti continueranno a partecipare alle operazioni militari fino alla completa uscita di scena del colonnello Gheddafi. Così proprio pochi istanti fa ha parlato il segretario di Stato americano Hillary Clinton alla ministeriale degli esteri della NATO. Abbiamo parlato delle tensioni in Maghreb e nel Medio Oriente. Oltre ai riflessi politici e umanitari, continuano a pesare anche sull'economia. L'inflazione nell'area euro dovrebbe restare al di sopra del 2% per l'intero 2011, dice oggi la Banca Centrale Europea, in una giornata di tensione anche per Portogallo e Grecia. Allora, sentiamo Deborah Rosciani. Sì, cominciamo con la tensione sul debito sovrano dei paesi dell'Eurozona in difficoltà. Questa mattina c'è stato il nuovo record del rendimento dei titoli decennali del Portogallo. Il tasso è volato all'8,88%, il livello più alto dall'introduzione dell'euro. Mentre è volato a nuovi massimi il rischio sul debito della Grecia con i credit default swap, questi misuratori appunto proprio del rischio di fallimento dei paesi, che sono saliti a 20 punti base al record di 1.080 punti. Il quadro naturalmente si riflette anche in borsa, con un ribasso di oltre un punto percentuale a Londra, a Parigi e a Milano, trascinata a ribasso dai titoli bancari, mentre Francoforte contiene leggermente le perdite, meno 0,85%. Dicevamo sulla Grecia, un paese che naturalmente tecnicamente è già fallito e che adesso sta valutando l'opzione appunto della ristrutturazione del suo debito dopo il maxi prestito ricevuto dalla Unione Europea. Dicevamo poi a Milano, stanno andando giù pesantemente i titoli del settore bancario, sia per le preoccupazioni legate al debito sovrano dell'Eurozona, ma anche perché naturalmente il tema è sempre quello delle ricapitalizzazioni. Banca d'Italia ha invitato la Popolare di Milano a ricapitalizzarsi entro la fine di giugno, quindi questa banca non aveva intenzione di adottare delle misure straordinarie per il capitale, a questo punto dovrà farlo e questo naturalmente si riflette anche in borsa. L'euro arretra fortemente sul dollaro, stamattina siamo a 1,43,85. Anna. Grazie Deborah Rosciani. Dicevamo, le tensioni provocate anche dalle crisi internazionali, non c'è solo la crisi in Libia, flussi migratori, politiche europee, crisi lontane a sud del Sahara, la crisi in Costa d'Avorio alimenta l'instabilità economica regionale. Secondo l'ONU sono oltre 1 milione gli sfollati che si trovano senza casa, senza cibo, in condizioni igieniche disastrose. Ora che il presidente eletto ha assunto il potere grazie all'intervento francese, inizia il lungo lavoro di ricostruzione. Gigi Donelli ne ha parlato con l'ambasciatore italiano ad Abidjan, Giancarlo Izzo. In Costa d'Avorio ci sono più di 5-6 milioni di stranieri che erano venuti qui a lavorare, quindi il problema non è soltanto un problema della Costa d'Avorio, è un problema di tutta la regione. Io le ricordo che la maggior parte delle importazioni e delle esportazioni, per esempio del Mali, del Burkina Faso in particolare, del Niger, passa attraverso il porto di Abidjan. Quando noi come Unione Europea abbiamo messo delle sanzioni ai porti per evitare che il regime Gbagbo si avvantaggiasse delle esportazioni del cacao e del caffè, questo ha colpito non soltanto la Costa d'Avorio, ma l'intera regione. La comunità italiana in Costa d'Avorio? Erano 600 persone, ad Abidjan sono rimaste all'incirca 280 persone, di cui una sessantina dovrebbero partire. Ora, buona parte delle persone che sono rimaste qui sono quelle che avevano avviato una piccola attività, vuoi commerciale, vuoi industriale. Questi sono anche i giorni in cui la Francia mostra i muscoli. Ma io quello che vorrei semplicemente dire qui, arrivati a questo punto, io credo che l'azione militare era quasi diventata necessaria. La città di Abidjan in particolare e la Costa d'Avorio in generale non poteva più andare avanti. E torniamo in Italia. Una colonnina di una balaustra laterale del ponte di Rialto di Venezia si è staccata e non è la prima volta. La soprintendente allora della città lagunare, Renata Codello, al microfono di Adriana Fracchia. Venezia dovrebbe al massimo tollerare 20-22 mila turisti al giorno, mentre invece nei giorni di punta arriviamo tranquillamente a 150 mila. Questo comporta fenomeni di usura di tutte quelle parti più evidenti del ponte, Per cui, se da un lato possiamo dire che l'aspetto strutturale del ponte è sicuramente di una buona salute complessiva, dall'altro gli elementi più esposti ovviamente sono quelli che risentono di più. Necessitano di interventi che siano costante manutenzione ordinaria, quindi il problema delle risorse non è tanto avere un importo una tantum, quanto di avere la garanzia di poterlo manutenere. Il fatto che i contributi di privati di qualunque tipo destinati alla conservazione del patrimonio artistico e architettonico siano liberati dagli sgravi fiscali, fermo restando il controllo della soprintendenza, dell'ente di tutela che si rende garante della correttezza e della bontà della realizzazione degli interventi. Nel mio futuro non c'è l'Italia, a parlare così Simone Piras, 20 anni, studente di ingegneria informatica a Pisa, insieme a due amici cagliaritani ha vinto il concorso dell'Unione Europea ai giovani e le scienze. Hanno inventato Gavin 1.0, un robot che gioca a morra. No, abbiamo voluto creare un robot che giocasse alla morra in quanto la morra è uno dei giochi molto radicati nella nostra terra, in quanto si pratica da millenni. Inoltre abbiamo voluto usare questo mezzo in quanto volevamo cogliere più gente possibile nel nostro contesto isolano. Infatti in Sardegna non c'è una propria propensione per le scienze informatiche, quindi volevamo fare un mix di tradizione e nuove tecnologie quali l'informatica. Simone, qual è il tuo progetto per il futuro? Restare in Italia o andare all'estero? No, assolutamente no, ma per ovvi motivi. Sicuramente andare all'estero, per il semplice motivo che, parliamoci chiaro, in Italia le possibilità sono molto molto poche. E se pensi all'Europa, quale sarebbe la tua città preferita? Probabilmente o Svizzera o Germania, perché comunque anche i paesi vicini all'Italia hanno una mentalità quasi simile, tipo andare in Spagna è la stessa cosa, in Francia non c'è questa propensione come in altri paesi. L'apice sarebbe andare in America, dove giustamente si spende tantissimo per la ricerca e si è valorizzati tantissimo rispetto che qua e nell'Unione Europea. E nel futuro di qualcun altro invece ormai l'Europa non c'è più. Parliamo di calcio, parliamo dell'Inter, Dario Ceccarelli. Sì Anna, è proprio così, Europa addio, soprattutto per l'Inter e per Leonardo. Ci si aspettava il miracolo e il miracolo non c'è stato, come direbbe Mourinho, zero miracoli. E del resto, se nella Champions nessuno in trasferta aveva mai rimontato 3 gol, un motivo ci sarà stato. Comunque il problema è che l'Inter ieri non è mai stata in partita e non ha mai dato l'impressione di poterlo fare. Sentiamo a Leonardo che alla fine lo ammette. Che per me non era un sogno, secondo me era una cosa che poteva stare. Ho visto Schalke primo tempo con grossa difficoltà di gestire la situazione, forse anche con tanta paura che succedesse, diciamo, una rimonta del genere. Noi non siamo stati incisivi, non siamo riusciti a far male, non siamo riusciti a trovare, diciamo, il colpo che poteva cambiare il volto di questa partita. Questa è stata una stagione molto, molto travagliata e non è finita, nel senso noi abbiamo ancora tante cose da fare. E non è finita, Leonardo ha ragione, il difficile viene adesso perché, ammesso che il suo futuro sia ancora all'Inter, il brasiliano sa che il momento più complicato è quello di gestire un momento difficile, questo ultimo tratto di strada. E anche perché l'ambiente dell'Inter è molto emotivo, sentimentalmente legato al suo totem Mourinho. Sentiamo cosa dice sull'Inter. Era la missione praticamente impossibile. Un peccato, però non puoi vincere sempre. Inter ha ancora la Coppa Italia per giocare semifinale e ancora il campionato che è aperto. E pensare alla prossima stagione, non puoi vincere sempre. E la vita è così. E la vita è così, dice Mourinho. Dario, ultima battuta, adesso che succede? E adesso il 26-27 aprile si giocheranno Schalke e Manchester United e soprattutto Real Madrid-Barcellona. Real Barca è il derby del mondo e così pensate che da questo sabato al 3 maggio si giocherà ben 4 volte perché c'è anche in campionato e nella Coppa del Re. L'ultima volta in campionato il Real Madrid prese ben 5 gol, quindi per Mourinho è un'occasione per cercare di riscattare quei 5 gol che sono diventati quella manina con cui i giocatori del Barca lo prendono sempre in giro. E allora non abbiamo dubbi, continueremo a parlarne anche più tardi con Gigi Garanzini. Noi nel frattempo invece davvero ci fermiamo qui. Filippo Reggi in regia, ancora un saluto, una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.